L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Allora, prenderò l'autobus al volo. No, Ugo, l'autobus al volo no. No, papà. Sì, saltando dal terrazzino. Guadagnerò almeno 2 minuti. No, Ugo, non l'hai mai fatto. Dai mezzi pubblici affollati alla mobilità intelligente nell'era Covid. Ma cos'è? Ben ritrovati da Anna Migliorati. Torniamo al nostro orario del sabato e ripartiamo subito da quello che è l'imperativo di questi giorni: come muoversi. Che siano posti a scacchiera o mezzi affollati, di fatto su questo punto si gioca una partita importante, ve l'abbiamo raccontata nei nostri giornali radio, ma come sempre noi proviamo anche a guardare da un altro punto di vista. Allora, provate a pensare se i mezzi di streaming come Netflix hanno cambiato il modo in cui accediamo ai contenuti multimediali. Immaginate questo modello applicato al trasporto urbano. Un futuro per l'economia dei trasporti? Cominciamo innanzitutto con la nostra storia italiana, anzi europea, ma con anima italiana. Io saluto Emiliano Saurin, uno dei fondatori di una app. Capirete subito però che si tratta di cosa molto concreta, si chiama Urban Mobility. Grazie a voi. Raccontiamo un po' come nasce la vostra storia e la vostra idea. Era il 2013 quando io e la mia compagna ci siamo trasferiti a Berlino e abbiamo scoperto il car sharing. Io ho un background da sviluppatore, la mia compagna da designer, e quindi abbiamo fatto un'app che racchiudeva i vari operatori di car sharing berlinesi. Oggi in quante città siete? Sono una ventina, tra Milano, Roma, Torino in Italia, abbiamo Berlino, Amburgo, Monaco, Parigi, Madrid, Barcellona, Lisbona e Vienna. Nel frattempo è anche cambiato lo sharing, non ci sono più solo le auto, c'è un po' di tutto e si parla di servizi per la mobilità, insomma. Da aggregatore di car sharing siamo evoluti ad aggregatore di mobilità urbana. Pensiamo a servizi come il taxi o i mezzi pubblici e i treni, che non sono proprio, diciamo, nuovi, però che con la tecnologia stanno un po', insomma, in competizione con la macchina privata, e quindi il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità a un utente di vivere in una di queste città senza avere la macchina privata, o magari rinunciando alla seconda macchina per cominciare. Tutto questo spostato nell'era Covid, io da casa mia con un'app posso decidere con cosa muovermi per essere più tranquillo, o meglio ancora più sicuro. Esatto, diciamo che il Covid, ovviamente, come in tutti i mercati, anche su quello della mobilità, ha buttato una bomba. O andiamo avanti di 10 anni o andiamo indietro di 10 anni. Quindi fortunatamente la digitalizzazione dei vari servizi era già cominciata. Domanda da $1 milione, ma se io vado su un'app per scegliere con quale mezzo muovermi, io cosa ci guadagno e voi cosa ci guadagnate? Dovresti essere un attimino più leggera, meno stressata, e comunque avere la sicurezza di arrivare dove devi andare in modo sicuro e veloce e conveniente. Lato nostro, il nostro obiettivo è quello di in futuro di dare un'offerta di mobility as a service, un po' alla Netflix. Tu oramai non paghi più il film che vedi o il CD che ascolti, paghi un abbonamento mensile. Mi abbono al fatto di muovermi. Esatto. Un giorno guardo un film, un giorno dopo guardo una serie, un giorno vado col monopattino, un giorno vado con la macchina. Esattamente. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce. Un dato è certo, una mobilità più sicura, più flessibile, quello che tutti vorremmo in questo autunno di pandemia, ma non solo, perché il settore auto, ad esempio, prevede un calo del 37%, mentre il trasporto pubblico perdite, dall'altra parte, per 1,5 miliardi di euro. E allora? Facciamo i conti. E chiediamo aiuto all'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility. Massimo Ciuffini, benvenuto. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Facciamo qualche conto. Quanto era diffusa la sharing mobility prima, diciamo febbraio di quest'anno, e che quadro possiamo fare invece ad oggi? Beh, ovviamente un grande calo dell'80-90% nei mesi di marzo ed aprile, e poi dopodiché una risalita differenziata secondo i diversi servizi sharing mobility. C'è una distorsione che noi abbiamo colto fin dall'inizio, quando abbiamo fondato l'osservatorio nel 2015, a fare equivalere il termine sharing mobility con il car sharing. In realtà non è così. così, non lo è nei numeri, non lo è neanche nelle prospettive. Car sharing, per esempio, in questo momento è il servizio che invece sta soffrendo di più rispetto invece ai veicoli più leggeri, dunque la bicicletta elettrica e poi appunto la grande novità di quest'anno, i monopattini elettrici. Su che ordine di grandezza siamo? Allora, per quanto riguarda i monopattini, ovviamente considerando anche che il dato di Stradi non era assolutamente presentativo, visto che molti servizi sono stati attivati dopo, comunque abbiamo già superato i noleggi, dunque l'uso che se ne faceva a febbraio, siamo arrivati al 120-130%, in alcune città anche al raddoppio. Mentre per quanto riguarda il bike sharing, siamo intorno al 70-80% rispetto al 100 appunto di febbraio. Nel car sharing siamo un po' al di sotto, tra il 50 e il 60%. Guardando alle prospettive con l'avvio di tutte le attività dell'autunno, quant'è la propensione ad usare lo sharing, magari anche per evitare i mezzi pubblici? Dicono che è in qualche modo connesso alla parola stessa, condivisione, sharing. Bene, tutte gli intervistati, mettendo diverse possibilità di viaggio in una scala di valori da 1 a 5, mettevano al primo posto l'auto privata. Poi successivamente il monopattino, la bicicletta e lo scooter sharing e poi il car sharing. Soltanto all'ultimo posto il trasporto pubblico. Pubblico e privato, quanto pesano nel sistema italiano di sharing? È difficile da dirsi perché in realtà quasi tutti i servizi di sharing nascono da una collaborazione, da una partnership declinata in mille modi diversi tra pubblico e privato. Diciamo che per esempio nel car sharing sicuramente i servizi più grandi e di tipo free floating, cioè quelli a flusso libero, qui uno prende una macchina e la può lasciare dove si vuole, normalmente sono privati, però per esempio invece ci stanno dei car sharing station base, per esempio quello di Palermo che è interamente pubblico, o per esempio quello di Cagliari che è metà pubblico e metà privato. Nel caso delle biciclette è prevalentemente un servizio privato, nel caso degli scooter sharing è completamente privato, nel caso dei monopattini sharing è completamente privato. Dunque ci sono diverse sfumature di intervento pubblico che comunque è sempre fondamentale, perché tutti i servizi, anche i più liberalizzati, fondamentalmente hanno bisogno, per poter operare in città, di una forma di autorizzazione da parte delle amministrazioni locali. Dove andiamo? Qual è la nuova economia della mobilità? Solo i sistemi di car sharing sono ora presenti in 6 continenti. Si prevede che nel 2025 li useranno oltre 36 milioni di persone, solo per quanto riguarda il car sharing. In Italia, però, ad esempio, questo è un nodo, i pagamenti digitali per i mezzi di trasporto valgono 325 milioni di euro, dati del Politecnico di Milano. Troppo pochi. Però, come dicevamo, c'è qualcosa che avanza. Allora, per tirare le fila, Luigi Onorato, società di consulenza Deloitte, benvenuto. Buona giornata. L'emergenza pandemica ha fatto fare un passo avanti al sistema di mobilità integrata, cioè ci sta costringendo a ripensare il modo di muoversi nelle città. Di fatto però ha accelerato da questo punto di vista perlomeno un sistema che era già in corso, cioè già progettavamo di muoverci non solo con l'autobus e la metropolitana, è così? È così. Ora il tema è come gestire questa accelerazione. Covid ci ha lasciato un'eredità di 3 aspetti che ci colpiscono. Il primo è che noi abbiamo oggi una maggiore esigenza di sicurezza. Seconda considerazione, ci siamo resi conto che siamo anche capaci di usare qualcosa che sia digitale, cioè dei pagamenti digitali. Terzo aspetto, Covid è soprattutto anche una crisi economica recente. Quindi siamo anche più sensibili a tutto ciò che sia un po' più economico. Ecco, questi 3 aspetti in primis ci mettono nelle condizioni di dover rivedere le modalità con cui noi eravamo abituati a raggiungere il posto di lavoro, ma anche come gestiamo il nostro tempo libero, perché poi la mobilità è un vincolo anche alla qualità della vita. Ci aspettiamo dei cali molto importanti, fino all'80-85% di domanda per il servizio pubblico. Anche a settembre. Questa è la preoccupazione. Quando si parla di sharing, quindi di condivisione, sì, nella mobilità, parlo dei monopattini innanzitutto, che abbiamo visto farla un po' da padrone quest'estate, ma poi anche biciclette condivise e integrazione tra i vari sistemi, quindi posso prendere più di un mezzo condiviso. Assolutamente, questa è la cosiddetta mobilità dolce e probabilmente la mobilità dolce accelera ancora di più quella necessità di trasformazione delle infrastrutture delle nostre città perché è un tema che, su cui insomma da tempo discutiamo. E vengo quindi al punto successivo. Per quanti italiani vale questo tipo di trasporto e quanto vale il mercato della mobilità condivisa in Italia? Le nuove forme di mobilità sono conosciute da tantissime persone, arrivano a superare anche l'85% del campione intervistato. Il tema è l'utilizzo, poi è molto basso. Perché? Perché non sempre il servizio è disponibile. Quando noi parliamo di car sharing dobbiamo anche renderci conto che le caratteristiche del car sharing lo rendono adatto a grandi aree metropolitane. E il nostro paese, spesso lo dimentichiamo, è un paese dei migliaia di campanili. Il 77% della popolazione vive in città che hanno meno di 100.000 abitanti. In Europa che punto siamo? Siamo sicuramente molto avanti, soprattutto sull'intermodalità, per cui io nel mio viaggio posso utilizzare per un primo tragitto l'auto privata, poi utilizzare il servizio pubblico che poi finisce con l'utilizzo di una soluzione di micromobilità o di car sharing per raggiungere il posto di lavoro. La famosa lavoro. Integrazione tra vari mezzi. Esatto. Che è la novità. Che la novità è della vera sfida, perché poi l'integrazione richiede non tanto solo un'offerta da parte di operatori industriali, quanto, ripeto, un ridisegno della città, tenendo a mente che le città non sono tutte uguali, come dicevo. Il nostro è un mercato maturo per tutto questo? È maturo come bisogno, mettiamola così. Ricco di offerte da parte di operatori privati, non è ancora maturo a livello di infrastrutture. Siamo partiti dal fatto che questa emergenza ha accelerato un processo che era appena al nascere. Vorrei chiudere proprio tornando a questo punto. È un acceleratore che secondo lei ci porteremo anche nei prossimi anni, nei prossimi mesi, quando l'emergenza Covid sarà finita? Sì, tanto quanto diventeranno, e io credo di sì, normali alcune abitudini che sono anche di buon senso. Distanziamento sociale, che poi tradotto vuol dire non riempire al 150% un mezzo pubblico, non potranno che diciamo diventare elementi di consuetudine. E di conseguenza, se riusciamo a fare quegli investimenti giusti, diventerà normale utilizzare anche altri servizi di mobilità, perché saranno presenti e utilizzabili. Grazie anche a Luigi Onorato, grazie a regia Carmelo Lauricella, buon sabato, noi ci risentiamo la prossima settimana con l'economia delle piccole cose, alla prossima da Anna Migliorati.